Summer Night, Miles Davis, secondo me può andare bene come atmosfera per una cena d'estate tra amici, in coppia, ma anche da soli, va benissimo. Le cene, le sere d'estate, io ho voglia di una cena all'aperto, di una terrazza, di un bel posto. Cosa mi può consigliare il nostro gastronauta? Buongiorno Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno, cercherò di consigliarti al meglio. Oh, che meraviglia! Le serate d'estate ora sono cominciate, fa molto caldo. E mangiare al chiuso bisogna mangiare con l'aria condizionata, per cui non a tutti piace mangiare con l'aria condizionata. Io cercherò di portarti in qualche terrazza, magari anche in qualche giardino in giro per l'Italia. Ma sai, quello che si cerca di più, sai, se uno al mare, bene o male, respira durante la giornata e si accontenta anche magari di un locale al chiuso dopo aver mangiato con i piedi nell'acqua, ma in città è molto più dura. E allora io comincerei da Roma, da Roma, perché Roma è la città delle terrazze. Diciamo che anche moltissimi appartamenti hanno le terrazze, i romani sono abituati a mangiare nelle terrazze. Allora io ti do un'indicazione, un indirizzo molto bello, perché è sopra Piazza di Spagna, quindi un posto splendido. C'è un grandissimo albergo che si chiama Hustler, che è molto famoso, ma ha un ristorante che si chiama Imago Roof Restaurant, quindi quando si dice roof si capisce che si sta abbastanza in alto, quindi in alto, e quindi si può vedere un po' tutto il panorama, e devo dire che Roma veramente ha dei panorami incantevoli. Bene, in questo ristorante c'è un bravissimo cuoco che si chiama Francesco Apreda, ed è un campano però con diciamo molti anni in Oriente, quindi diciamo la sua cucina sicuramente di tradizione italiana, però con quel pizzico ormai che si mette di Oriente, quei sapori molto particolari, quei sapori forti che arrivano dall'Oriente. Insomma, mi sembra che ci sia anche una canzone della Nannini che dice appunto di questo profumo molto particolare. Un sapore medio orientale abbiamo. Esattamente, bene. Quindi cosa c'è di più bello di lì? Mangiare qualche piatto con questi profumi e bersi su una terrazza romana, ragazzi, è il massimo. Poi, le notti romane, le terrazze romane, insomma. Poi ce n'è anche un'altra, anche questa è importante, che è dell'Hotel Eden, famosissima anche questa, perché sono queste terrazze in cui si domina tutto il panorama di questa meravigliosa città, magari non proprio ridotta bene oggi, ma insomma speriamo che domani si riprenda. Però ora ti porto nella tua città, Milano. Ah, ecco, così dei suggerimenti per queste settimane prima delle ferie fuori. Dove andiamo a cena a Milano nelle sere d'estate? Beh, andiamo prima di tutto in una terrazza colta. Andiamo nella terrazza della Triennale. Andiamo alla terrazza della Triennale, che ritengo che oggi a Milano sia forse la più bella terrazza, perché c'è meravigliosa una scena anche qui, perché Milano non ha forse tutti gli angoli incantevoli di Roma, però anche Milano ha il suo fascino, quindi non buttiamolo giù. E dalla terrazza della Triennale si vede una bella Milano. Poi magari in questo periodo uno si fa un giro sulle mostre che ci sono alla Triennale, si vede un po' di capolavori, quindi l'arte non fa mai male. Poi sale in questa terrazza, come dicevo, magari per un aperitivo, poi si ferma anche a mangiare. Qui c'è il ristorante gestito da un cuoco, uno chef patron lombardo che arriva dalla Francia Corta, quindi ha una cucina diciamo lombardo franciacortina, con il manzo all'olio, che è una delle grandissime specialità di questo ristorante, ma anche di questo cuoco. Poi possiamo fare un altro giro, possiamo andare a Ceresio 7, è un'altra terrazza veramente molto particolare. Fa molto Miami Ceresio 7, mi ci hanno portato, sembra di essere un po' a Miami, terrazza con le piscine, che detto a Milano fa strano, ma è così? Sembra strano sulla terrazza di Ceresio 7. Beh sì, hai ragione, non ha niente di milanese, mentre la Triennale sì, perché so, oggi è un luogo importante per Milano. È una terrazza, beh, quando mettono le mani gli stilisti nei locali c'è sempre questo così questa correre dietro al momento di moda, quindi correre dietro a Miami, forse hai perfettamente ragione tu, ci sono due piscine, e quindi forse la cosa più bella è l'aperitivo, perché l'acqua dà sempre l'idea del fresco anche quando c'è caldo. Mm-mm. E quindi va benissimo. Qui c'è un cuoco anche qui molto bravo, che è Sironi, Elio Sironi, che prima era al Bulgari, e visto che ho citato il Bulgari, nel giardino del Bulgari sicuramente è un altro luogo milanese dove vale la pena di andare. E diciamo che sto portando sempre negli alberghi, perché gli alberghi più di ogni altro hanno terrazze e hanno giardini. Mm-hmm. È difficile trovare ristoranti, specialmente a Milano, che abbiano un giardino gradevole e non siano in alto con una terrazza, oppure siano in un albergo con largo spazio. Comunque ora andiamo un po' in provincia. Sì. Ho citato prima la Franciacorta, e allora andiamo ad Erbusco. Andiamo a Erbusco, che è una zona che tutti conoscono per il vino, ci sono vigni ovunque. Diciamo che il Franciacorta DOCG, questo spumante italiano che ha avuto grande successo qui, si trova un po' ovunque. E andiamo in un ristorante che si chiama Leone Felice. Leone Felice, ed è l'ex Albereta. Mm-hmm. Dove anni fa c'era Gualtiero Marchesi. Ora c'è ci sono stati dei cambiamenti, c'è uno chef molto giovane che si chiama Fabio, e soprattutto c'è un bistrò, oltre a un ristorante gourmand, c'è un bistrò che proprio dà una vista in lontananza sul lago d'Iseo. I fortunati che sono stati in questo locale in queste ultime settimane potevano intravedere quel capolavoro che ha fatto Cristo. Certo. E tra l'altro qualcuno mi ha detto che soggiornava proprio qui. Ma ecco, che questo bistrò è molto carino, all'aperto, si sta benissimo. Però voglio tornare indietro, perché di Milano mi sono dimenticato di una cosa importante. La terrazza del settimo piano della Rinascente. Ecco, questo c'è un bar che dà proprio vicino al proprio naso si vede il Duomo. Verissimo, verissimo, proprio bello. Per chi va a Milano, sicuramente in queste giornate può salire, può bere al bar, ma può anche mangiare qualcosa con questa, meraviglia di fronte. Hai un altro suggerimento di terrazza o di giardino? Sì, ne ho tanti altri. Siamo arrivati in fondo? Siamo arrivati quasi in fondo, abbiamo ancora 3-4 minuti. Dici tu, allora, se vuoi passare al secondo argomento, se ce lo teniamo per la prossima settimana. E allora ti porto al lago. No, vale la pena. Vado avanti con questi perché va bene. C'è richiesta. Vado al lago, vado a Bellagio. Ah, bene, Como, bene, bene, bene. A Villa Serbelloni, dove mm-hmm. c'è una terrazza immensa, bellissima, che domina tutto il lago. Qui c'è un ristorante che si chiama Mistral, dove c'è un cuoco che si chiama Ettore Bocchia, un tempo molecolare, è stato proprio uno degli inventori della cucina molecolare italiana, però è uno in grado di fare anche degli straordinari piatti di cucina, chiamiamola così, convenzionale. Ora ti porto a Noli, perché anche qui c'è una terrazza che va in vacanza da quelle parti, una delle più belle terrazze, in un ristorante che si chiama Il Vescovado. Mm-hmm. Dove si può mangiare su questa terrazza con vista sul golfo di Noli, in mezzo agli ulivi. Quindi è veramente uno spettacolo nello spettacolo, con una cucina molto semplice, tutta basata su pesci del golfo, soprattutto dei pesci anche di cui pochi conoscono l'esistenza, ma c'è questo cuoco che si chiama Ricche Buono, che va sempre alla ricerca di queste peculiarità che sono abbastanza sconosciute. E poi ancora vicino a Milano ti porto a Villa Dalmè, all'Osteria della Brughiera, dove c'è un bellissimo giardino tenuto benissimo, c'è fresco, si mangia bene, c'è un proprietario molto simpatico, e quindi chi da Milano vuole andare poco fuori Milano può andare in questo posto. Però ti porto al sud, ti porto a Maiori, al Faro di Capodorso, questo altro bellissimo posto, oppure a Vico Quense, al Maxi dell'hotel Capogala. Quindi, come vedi, uno può girare l'Italia e sicuramente trovare il fresco di una terrazza o di un giardino, ma potrei ancora continuare, ma mi sembra che il tempo ha fatto grande. Allora, siccome, come diceva un tempo il mio amato Enzo Tortora, Big Ben ha detto stop, o quasi, io direi che però su questo argomento torniamo, e soprattutto io vorrei dedicarmi anche al secondo argomento che avevi nella manica per oggi, che era... secondo me fantastico, perché io voglio sentire parlare di anguria o cocomero a seconda delle parti d'Italia d'estate. Ce lo teniamo per la prossima settimana, Davide, per non accelerare i tempi, perché noi ce la vogliamo prendere anche con un pochino di calma nonostante i tempi radiofonici ogni tanto. Va benissimo. Dai. Allora, alla prochaine fois. Alla prochaine fois. Ma quanto è sempre elegante il nostro gastronauta, ma che uomo di classe è, ma come sono contenta di avere il gastronauta al Sabato del Villaggio. Allora Davide, alla prossima settimana. Io mi sono segnata un sacco di posti, anche perché, come si è intuito, quelli di Milano li conoscevo abbastanza perché sono una donna di mondo, ma gli altri per niente, quindi un sacco di posti in cui andare. Grazie per i suggerimenti, al prossimo sabato Davide. Ciao, ciao, ciao a tutti.